Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come presumibile, come sapete anche se avete ascoltato i nostri GR, la rottura dell'accordo del 2008 operata ieri dalla Federmeccanica, non è una rottura, dice Federmeccanica, occorre ripensare agli accordi, ma insomma è un tema, è il tema forte oggi della giornata economica dal punto di vista italiano. Già questa mattina se ne è occupato Oscar Giannino, ascolteremo alcuni passaggi, poi avremo il direttore generale di Federmeccanica alle 18, nostro ospite, e abbiamo intervistato il segretario della FIOM Landini su questo. Allora, Federmeccanica ha precisato più volte che non è arrivata nessuna pressione dalla Fiat, ma è chiaro che l'intera vicenda di Pomigliano e il fatto che Sergio Marchionne abbia proposto un accordo diverso ai metalmeccanici della Fiat di Pomigliano ha aperto, diciamo, il tema e l'elemento anche appunto di rivisitazione di questi accordi. Tutto questo, se non vogliamo guardarci solo le punte dei piedi, si inserisce nel ragionamento più ampio del portato di questa crisi, e adesso racconteremo anche alcuni dati in cui l'Italia viene è prevista crescere un po' meno delle attese quest'anno e l'anno prossimo, anche lo dice il Fondo Monetario Internazionale, anche per via di una scarsa competitività. Ed è chiaro che poi i grandi gruppi cercano anche di lavorare su questo. Sappiamo, perché lo ascoltiamo ogni giorno nel nostro appuntamento che si chiama Venti di Ripresa la mattina, ma anche ce l'hanno raccontato molti imprenditori, che purtroppo ma il recupero di molte aziende, soprattutto piccole e medie, nel 2010 rispetto al 2009, ripeto purtroppo, è avvenuto tagliando i costi, oltre che agganciando quel po' di ripresa che si è visto all'inizio 2010 sull'export. Riduzione dei costi vuol dire aumento della disoccupazione. Infatti anche il Fondo Monetario oggi continua a sostenere che la vera zavorra per la ripresa mondiale è la disoccupazione. È immaginabile che quindi si cerchi di rivedere i contratti e i tipi di contratti, è cambiato il mondo nel frattempo. Questo è il tema che affronteremo alle 18. In apertura invece parleremo di economia internazionale, ma non solo, anche italiana, perché questa mattina si è temuto il peggio dopo la chiusura di Tokyo. Tokyo ha chiuso malissimo, meno 2,2%, molto male anche Hong Kong, meno 1,5%. Perché? Perché il dollaro è finito a minimi storici negli ultimi 15 anni, a quota 83,35 yen, e su questo si è temuto, insomma, sostanzialmente che il Giappone precipitasse in una crisi da export con un dollaro così debole e uno yen così forte. Devo dire, visto che parliamo di valute, che in questo momento l'euro sullo yen è a quota 106 ed è in leggero rafforzamento, ma l'euro sul dollaro è a quota 1,2751, quindi non vediamo un dollaro indebolirsi così tanto nei confronti dell'euro, resta sempre a quota 1,27. L'euro su franco svizzero invece a quota 1,28. Di questo parleremo in apertura, cioè mondo valutario da un lato e dall'altro anche prospettive che arrivano dall'America, perché alle 20 ore italiana uscirà il Beige Book, che è il libro di sintesi sull'andamento, sullo stato di salute dell'economia americana. E poi quella che sarà ormai la nottata italiana, parlerà Barack Obama annunciando un nuovo pacchetto, dopo quello annunciato l'altro ieri, di stimoli all'economia, questa volta non investimenti in infrastrutture ma agevolazioni fiscali per le imprese, soprattutto da quello che abbiamo capito per le imprese che assumono. Quindi l'America, comunque, piaccia o non piaccia, si muove in maniera molto forte, investendo in maniera keynesiana, hanno detto molti, sulle infrastrutture, modello New Deal, modello Roosevelt, e dando agevolazioni fiscali alle imprese che assumono. Altro tema che affronteremo è il risveglio del mercato immobiliare. Oggi infatti sono usciti dei dati dell'Istat in cui il mercato immobiliare, sia come compravendite che come numero di mutui, è tornato a crescere, non capitava oggettivamente da prima della crisi. Nel primo trimestre 2010 le compravendite hanno fatto un più 2,3% e anche i mutui hanno fatto un più 13,7% rispetto ai primi tre mesi del 2009. Buono andato anche sull'export italiano. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve, partendo dallo sventato pericolo delle borse, visto che sono tutte positive quelle europee. Sì, hanno girato in positivo, hanno azzerato le perdite, perché questa mattina perdevano, più 1% Milano, più 1% Parigi, più 0,80% Francoforte, mezzo punto percentuale di rialzo su Londra, più 0,70% in questo momento l'America. Bene da noi in pregilo, più 3%, Monte dei Paschi più 2,5%, Italcementi più 2,1% come Parmalat, Fiat più 1,80% come Tenaris, l'1,6 lo guadagna Mediolanum e l'Automatica, 1,5% il rialzo di Mediaset e di Unicredito, l'1,3 quello di A2A, di Telecom Italia, di Mediobanca, di Finmeccanica, di Bulgari e di Exor. L'1% lo guadagna invece Intesa San Paolo e anche Luxottica. Perde l'1% Estima Electronics, perde mezzo punto percentuale invece Buzzi Unice. Allora, altre notizie di mercato: petrolio in calo a $73 al barile. Poi c'è una dichiarazione abbastanza così che ci lascia perplessi della British Petroleum dopo il disastro che ha creato nel Golfo del Messico la sua piattaforma. Sentite un po' cosa dice la BP, la British Petroleum, in un rapporto investigativo. Dice: non è stata una singola causa, ma una sequenza di errori la cui responsabilità va divisa tra un numero di soggetti differenti. Questo ha provocato infatti l'esplosione della piattaforma. Sì, soggetti differenti, ma sempre all'interno della British Petroleum. Cioè, non è che quando estrai il petrolio tuo e quando ce lo riversi in mare, no, è di tutti. Se no, torniamo alla capitalizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite, che già abbiamo visto recentemente con il mondo delle banche e della finanza. Ancora l'oro è in rialzo, è vicinissimo al record. Comprate oro. $1,259,30 l'oncia. Il record è a 1000 nell'intraday, cioè durante il mercato interno, ha superato quota 1261, il record è 1266, insomma, siamo vicinissimi al record. Del Fondo Monetario Internazionale diremo tra un attimo. Ancora preoccupazione in Italia, rivista leggermente a ribasso quanto a stima del PIL, più 0,9 invece che più 1%, e come prevede anche il governo, e più 1% l'anno prossimo invece che più 1,5% come invece prevede il governo. Pesa la scarsa competitività delle case, abbiamo detto, e parleremo più avanti di competitività. Ha parlato oggi anche la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ricordando che occorre aumentare, altrimenti andiamo in difficoltà. Commentava direttamente le anticipazioni del Fondo Monetario Internazionale. E poi un tema che a noi è caro da settimane, e mi riferisco all'assenza dello sviluppo, del Ministro dello Sviluppo Economico e devo dire anche del Presidente della Consob. Ricordo ancora che due settimane fa, quando abbiamo fatto la prima puntata, venimmo criticati, ecco, la buttate in politica. Poi adesso vedo che lo chiedono tutti, a partire dal Presidente della Repubblica, meglio così. Sentiamo su questo la Presidente di Confindustria. Abbiamo chiesto, lo continuiamo a chiedere, c'era una promessa di farlo in pochi giorni, ieri nel Consiglio dei Ministri non è stato fatto, a questo punto però noi facciamo un'altra richiesta formale, che entro pochi giorni si faccia un Consiglio dei Ministri e si elegga il Ministro dello Sviluppo Economico. In un momento complesso come questo abbiamo bisogno del Ministro dello Sviluppo Economico. L'ho già detto noi non siamo per politiche industriali centralizzate dove si decide che questo settore è buono, questo settore non è buono, siamo però perché si torni a crescere, si torni a creare le condizioni di competitività per le imprese. C'è qualche miglioramento, ma se il paese non diventa più competitivo, se le nostre aziende non riescono ad essere forti e conquistare i mercati mondiali, noi andiamo in difficoltà. Quindi è fondamentale che il ministro venga nominato e che tutto il governo però decida di occuparsi di crescita, di posti di lavoro, di occupazione, che poi sono i veri temi che interessano al paese, interessano agli imprenditori e interessano i lavoratori. E come abbiamo già detto, non vediamo sufficiente attenzione e concentrazione su questo tema. Vedremo, perché lo ricordo senza alcuna polemica, solo come dato di fatto che il 23 luglio scorso il Presidente del Consiglio Berlusconi disse che sarebbe salito al Colle nell'arco di una settimana per presentare il nome al Presidente della Repubblica, sottoporre il nome del nuovo ministro dello sviluppo economico. Così non è avvenuto. Venerdì eravamo in diretta da Cernobbio, è arrivata la nota del Presidente del Consiglio che questa settimana o nell'arco di una settimana sarebbe salito al Colle per presentare il nuovo nome del Ministro dello Sviluppo Economico. Siamo a mercoledì, c'è ancora spazio, siamo a metà settimana. Ancora con le notizie in breve, andiamo rapidi che oggi ce ne sono tante. La Presidente di Confindustria sul voto è tornata su un tema già affrontato a Cernobbio, comunque no dal leader degli industriali all'idea di andare al voto come chiede la Lega. Noi abbiamo già detto la nostra opinione, secondo noi non si deve andare a votare. Questo è un momento in cui insomma questo governo ha avuto per tre volte la maggioranza, il voto della maggioranza italiana, 2008, 2009, 2010. Non è accettabile che per motivi interni di leadership, di attacchi personali, non si governi e non si facciano tutte le cose che sono necessarie. Quindi momento difficile, la possibilità di una crisi di governo c'è. Noi continuiamo a richiamare invece il governo a prendersi le sue responsabilità, andare avanti e governare, superare le beghe interne e agire per il bene del paese, perché di questo abbiamo bisogno. Ancora sui metalmeccanici, ma ne parleremo più avanti. Emma Marcegaglia ha detto che la disdetta del contratto del 2008 è un atto di chiarezza, che il problema vero è la FIOM, quindi la parte della CGIL che rappresenta il mondo metalmeccanico. Abbiamo firmato tutti i contratti di tutti i settori anche con la CGIL, come quello del tessile, dell'alimentare e altri. L'unico contratto che non riusciamo a firmare con la CGIL è quello che vede la rappresentanza della FIOM. E poi ha detto Marcegaglia: nessuno ha subito la decisione della Fiat. Di diverse opinioni invece Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, che ha detto la Federmeccanica ha ceduto al ricatto della Fiat, ha proposto 4 ore di sciopero entro il 16 ottobre e ha chiesto a FIM e WILM, quindi alle rappresentanze di CISL e WIL, di fare una consultazione democratica tra i lavoratori. Comunque lo sentiremo più avanti, sia Maurizio Landini che il direttore generale della Federmeccanica che il ministro Sacconi questa mattina alla versione di Oscar su Radio 24. Tutti li avremo, anche Raffaele Bonanni, segretario della CISL. Passiamo, tra l'altro, il prossimo 15 settembre la Fiat ha convocato al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo tecnico su Termini Imerese, fabbrica che invece la Fiat ha già annunciato di voler chiudere. La FIOM, sempre per voce di Landini, lo ha definito un invito a cena con delitto. Ancora due notizie in breve. È iniziato mezz'ora fa, 40 minuti fa, il comitato della governance del gruppo Nincreto, sotto esame la presenza libica. I libici hanno il 7% a questo punto del gruppo Unicredito, e ne ha parlato anche Bossi. Lo facciamo ascoltare durante i mercati, perché Umberto Bossi, anzi se ce l'abbiamo facciamolo ascoltare adesso, perché poco fa Umberto Bossi, sapete che la Lega, che è presente con alcuni suoi esponenti, uno su tutti il sindaco di Verona Flavio Tosi, dentro la fondazione Cari Verona, quindi vuole un unicredito che pesi di più sulle banche locali, sull'economia territoriale e locale, ha visto di malocchio soprattutto l'ingresso dei libici, l'ha criticato in maniera esplicita. Sentiamo Bossi sui libici dentro Unicredit. Ma abbiamo fatto degli accordi, è positivo, no, che le banche italiane sono in difficoltà e quindi cercano alleati. Le banche funzionano solo a soldi. Due notizie. Profumo che dice, Alessandro Profumo, numero uno di Unicredito, ci vuole tempo per adeguarsi a Basilea 3, che è la nuova regola per prestare soldi, per come le banche possono prestare soldi alle imprese. Poi ha sottolineato che il gruppo cresce molto bene in Germania. Il patto invece di sindacato di Rizzoli, Corriere della Sera, Media Group, è andato bene l'incontro, lo ha detto il presidente della Fiat, John Elkann. Non ci sono modifiche nel perimetro. Perimetro industriale, lo ha detto sempre il presidente della Fiat, John Elkann. E infine nessuno ha posto il tema della quota di RCS in mano fuori dal patto all'imprenditore Giuseppe Rotelli. Non, da quello che si apprende da fonti finanziarie, non vi è stata alcuna discussione su questo. Allora, primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Le reazioni, diciamo, l'analisi del Fondo Monetario Internazionale, le attese per quello che dirà Barack Obama e per il Beige Book di questa sera, mentre il dollaro precipita nei confronti dello yen, non nei confronti dell'euro. Devo rispondere velocemente però a due messaggi, perché ci scrive un autotrasportatore che dice che il movimento per il settore A, dunque il movimento per il settore auto, è un'enorme quantità di materiali dall'indotto per tutta Europa. Chi dovrebbe pagare i trasporti sono le case automobilistiche, che non pagano. Alla scadenza della fattura, 120 giorni bloccano i pagamenti. Se chiami le case automobilistiche per sollecitare il pagamento, ti minacciano pure. Stiamo facendo da banca ai colossi, noi stiamo fallendo, e tanti lo sono già. È un autotrasportatore che movimenta per il settore auto, materiali, non ho capito quali perché non lo scrive. Ne prendiamo atto, e più di leggere il suo messaggio non possiamo fare, purtroppo. E poi c'è chi dice che poveraccio che sei, ancora credi alle cose che dice Berlusconi. No, noi crediamo a tutto quello che viene detto a livello ufficiale dal governo italiano, dal governo tedesco, dal governo americano, salvo poi smentita. Adesso però l'oro ai massimi, il dollaro ai minimi. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buonasera. Buonasera, buonasera Sebastiano. Ti ho messo Tina Turner, Golden Eye, per sottolineare che quello che in questo momento va e tira vicinissimo a un nuovo record storico è solo l'oro. Tu hai comprato oro? Purtroppo no, caro Sebastiano. Perché, insomma, l'avrei dovuto comprare tempo fa e non so chi ha il coraggio di comprarlo ora, anche se molti dicono che potrebbe arrivare anche a 3.000, 2008, però chi conosce il futuro... Questo però è aggiotaggio, se scopriamo che l'hai comprato. No, a parte gli scherzi, dovresti rispondere no, non l'ho comprato perché non ho di che comprarlo, però... Esattamente quello che ho detto. Detto questo, venendo alle cose serie, che cosa sta succedendo sul dollaro in Giappone, perché è crollato a nuovi minimi, e da quello che tu hai capito, non tanto sul Beige Book, perché lì è difficile avere anticipazioni, ma a quanto ammonterà il pacchetto di stimoli fiscali che Barack Obama presenterà questa notte, dopo che ha già presentato 50 miliardi di dollari, 38 miliardi di euro di investimenti in ferrovie, autostrade, aeroporti per i prossimi 6 anni. Mario. Ma dunque, i due temi sono ovviamente legati, cioè la dinamica Giappone-Stati Uniti è una dinamica che poggia molto sulle possibilità di ripresa dell'economia americana, che in questo momento ovviamente restano piuttosto scarse. E nel momento in cui si è capito che questi interventi del Presidente Obama sono più degli interventi di immagine che di sostanza, degli interventi più politici che economici, ecco che in qualche modo c'è stato così un nuovo input nel mercato e soprattutto nella relazione con il Giappone, che ha spinto il dollaro al ribasso e l'oro al rialzo. Ma perché ti ho argomentato questa cosa su Obama e sulle sue ambizioni, tra virgolette, più politiche e economiche? Perché i 50 miliardi di dollari che lui ha proposto lunedì, da un punto di vista del merito, non sono altro che una goccia nel mare di quello che l'economia americana avrebbe bisogno in termini di stimoli. Perché se 816 miliardi di dollari, che è l'ultima stima del Congressional Office Budget, non sono riusciti a raggiungere la missione, non si vede come 50 miliardi distribuiti peraltro in 6 anni possano in qualche modo riuscirci. È stato più un atto così di generosità nei confronti dei sindacati che lunedì celebravano la festa del lavoro americana. Oggi Obama farà due interventi, cioè nello stesso intervento ci saranno due argomenti. Il primo, lo abbiamo già ascoltato, anticipato anche oggi sulle pagine del nostro giornale, riguarda questa possibilità di dare alle aziende l'ammortamento accelerato, anzi l'ammortamento totale, di spesare completamente gli investimenti del 2010 e del 2011, un pacchetto che vale circa 200 miliardi di dollari, che dovrebbe incoraggiare le aziende ad acquistare ora piuttosto che dopo e soprattutto dovrebbe lasciargli in mano molto contante. Anche questo pacchetto però, che è tra l'altro diciamo approvato o condiviso dai repubblicani, non avrà molte probabilità di essere passato in tempi brevi, perché Obama è ben cosciente che da qui alle elezioni ci saranno soltanto 15 sedute in congresso, quindi è impossibile che prima delle elezioni questo pacchetto. Quindi l'indebolimento del dollaro, per dare un titolo, diciamo, nei confronti dello yen, soprattutto perché con l'euro siamo a quota 1,27, tu lo leghi ad Obama e alle difficoltà che avrà il pacchetto? Beh, lo leggo al fatto che l'economia americana continua a essere debole e che le proposte per le quali c'era molta attesa oggi, a parte tutti gli elementi di contorno che già conosciamo, ma nella notizia quello che ci si aspettava come un appuntamento importante per il rilancio dell'economia americana attraverso dei pacchetti di stimoli, in realtà non ci sarà. E dunque il pronostico per l'economia americana e per il dollaro resta un pronostico tutto sommato di debolezza. Ci sono state poi anche delle anticipazioni del Fondo Monetario Internazionale, sì, con dei tassi di crescita, sì, per l'Europa abbastanza contenuti, per l'Italia attorno all'1%, quindi diciamo che la dinamica euro-dollaro resta in questo momento un po' ancorata a questo rapporto, ma in prospettiva, se l'economia americana non riparte, credo che anche il rapporto euro-dollaro finirà per soffrirne. Allora, vorrei sentire se è d'accordo il responsabile della ricerca Cambi per il gruppo Unicredito, dottor Roberto Mialic, buonasera. Buonasera a voi. D'accordo con l'analisi Mario Platero, cioè è in qualche modo, sintetizzo, la difficoltà che avrà Barack Obama nel portare avanti il pacchetto in tempi brevi e quindi i tempi di una nuova iniezione di liquidità, anche se per fini infrastrutturali, per fini fiscali sulle industrie. Ebbene, questa difficoltà penalizza il dollaro nei confronti dello yen e a breve anche nei confronti dell'euro. Sì, ma direi che le ragioni dietro al continuo apprezzamento dello yen sono varie, nel senso che sicuramente c'è un fattore legato al fatto che i mercati hanno preso atto via via negli ultimi mesi, soprattutto durante i mesi estivi, che l'economia americana è più in difficoltà del previsto, e che quindi anche serviranno nuove manovre intense da parte dell'amministrazione, che poi si trova anche di fronte al problema delle elezioni del midterm e via dicendo. C'è da dire però che questa debolezza dell'economia americana in realtà poi genera tutta una percezione un aumento della versione a rischio sui mercati che rafforza la domanda per cosiddette monete rifugio, tra cui in qualche modo c'è anche lo yen assieme al franco svizzero e allo stesso dollaro, per cui abbiamo una situazione in cui lo yen tende a rafforzarsi anche perché c'è domanda di protezione sui mercati internazionali e poi soprattutto perché il mercato non sta vedendo adesso finora grosse reazioni o grossa preoccupazione da parte delle autorità di governo e monetarie giapponesi per contrastare l'apprezzamento dello yen, che onestamente, anche se poi si possono fare tutta una serie di considerazioni se lo yen è correttamente valutato in base a parità di potere d'acquisto e cose varie, però insomma in ogni caso stride con un po' la situazione congiunturale giapponese, che non è certo rosea come hanno dimostrato gli ultimi dati del PIL. Il problema è che il mercato ha già visto a metà degli anni 90 dollaro yen andare sotto quota 80 e se non ci saranno interventi che a questo punto devono essere massicci e pesanti da parte delle autorità giapponesi in tempi brevi, non si vede motivo per cui il mercato dovrebbe cambiare direzione. Quindi lei vede uno yen sotto quota 80 se non cambia qualcosa in Giappone. Mi dice anche, così chiudiamo le prospettive sull'euro dollaro. Le prospettive sull'euro sono abbastanza simili, con l'aggiunta che in questi ultimi giorni sono tornati in primo piano i problemi relativi all'Europa, al sistema bancario e via dicendo. Quindi la nostra sensazione è che comunque ci sarà parecchia volatilità nei prossimi mesi, non vedremo dei movimenti direzionali secchi, cioè penso che l'area tra 1,28 e 1,22 23 dovrebbe rimanere di riferimento a lungo, però vedremo molta volatilità. Questo è un mercato per surfisti e non per arrampicatori. Per surfisti e non per arrampicatori. Mi è piaciuta questa, mi piace anche quella che scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Dunque, il titolo migliore sarebbe Oro ai massimi con Iene Franco, ovvero tutto in difesa con l'incatenaccio e la Trapattoni. Anche il catenaccio e la Trapattoni non mi sembra male. Mario Platero, per concludere, sostanzialmente, che cosa ti aspetti dal Beige Book invece di questa sera? Dal libro sul rapporto. Il Beige Book confermerà una debolezza generalizzata dell'economia americana e quindi l'incapacità di produrre occupazione, che poi è il punto dolente più grave per l'amministrazione Obama sul piano politico, ma per il mercato sul piano economico, con delle piccole sacche di resistenza in alcune zone del paese, qualche piccolo accenno di ripresa di produzione industriale, ma la connotazione di fondo sarà una conferma della debolezza dell'economia americana. Ci si muove tutti in parallelo sulla stessa linea. Il World Economic Outlook che discuteremo, affronteremo a Washington fra 3 settimane, di nuovo dà un'idea di debolezza generalizzata dell'economia mondiale e sostiene che in questo momento nel mondo ci sono 200 milioni di disoccupati, 20 milioni in più rispetto all'anno scorso, quindi il quadro non è esattamente roseo. Guarda, siamo così stretti con i tempi, Mario, che non posso far risvegliare il gufo, perché quest'ultima frase ci ha gelato. Comunque è indubbio che anche il Beige Book americano prenderà atto di questo. Vedremo poi il discorso di Barack Obama questa notte, domani mattina nei nostri GR. Per ora grazie Mario Platero in collegamento con noi da New York e a responsabile ricerca cambi del mercato dei cambi per il gruppo Unicredit Roberto Mihajlić, grazie a ambedue. E poi adesso meteo, alcune risposte a molte domande che arrivano: quanto un dente d'oro quanto vale? Ragazzi, non lo so, se un molare, un canino, non lo so, ne parliamo dopo il meteo e poi la borsa, più 0,91% il FTSE MIB, 349-238-6666 per i vostri SMS. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiuso il capitolo per ora del crollo dello yen oggi, del crollo del dollaro oggi sullo yen, del dollaro che se avanti così si indebolirà anche sull'euro, di Barack Obama che presenterà un piano di incentivi fiscali che però avrà difficoltà a essere operativo subito, come quello, come ha raccontato Mario Platero, anche degli investimenti infrastrutturali, e del Beige Book, ossia l'anamnesi della salute dell'economia americana, che arriverà stasera alle 20 e sostanzialmente dirà che qui c'è un problema di scarsa ripresa e grossi dubbi sulla disoccupazione. Adesso parliamo di borsa, più 0,91%, il dente d'oro, obiettivamente non posso continuare, ogni volta spieghiamo che l'oncia vale quella normale 28 grammi, quella che però viene usata per l'oro 31 grammi fanno un'oncia, si chiama oncia troy e non è un'offesa, 31,1 grammi per la precisione, e il dollaro, e l'oro sta viaggiando a 1260. La borsa 349-238-6666 per gli sms, una precisazione, l'autotrasportatore trasporta dalle lamiere le centraline per le case auto, perfetto, mi dispiace che vi paghino con estremo ritardo. La borsa, allora hanno recuperato alla fine le borse dopo i timori per questa bruttissima chiusura di Tokyo, meno 2,2%, più 0,91%. Eleonora Micheli dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Eleonora, il recupero a cosa è dovuto? Perché dei problemi abbiamo parlato fino adesso e poi ascolteremo anche una battuta di nuovo di Umberto Bossi sui libici in Unicredit. Eleonora. Sì, le borse europee hanno avviato le contrattazioni in calo, ma a metà giornata si sono portate in terreno positivo sull'onda della notizia del buon andamento delle aste dei titoli di Stato portoghesi a 3 a 10 anni. Ricordiamo che il Portogallo era proprio tra i paesi diciamo più a rischio nell'Unione Europea, e quindi il fatto che ci sia stata una corsa ad acquistare titoli di Stato è stato interpretato come un segnale di un ritorno di ottimismo che ha dato il là quindi a tutta una serie di ordini in acquisto sui mercati del vecchio continente. Sì, devo dire su questo che insomma, come è cambiato il mondo, visto che poi ne parleremo su Federmeccanica, sui rapporti, le relazioni industriali nel mondo dell'impresa, lo si capisce anche da piccole cose. Cioè, questo programma esiste da 10 anni, mai nella vita avremmo immaginato di doverci occupare delle obbligazioni portoghesi, col massimo rispetto del Portogallo, dei bot portoghesi. Invece adesso tale è stata l'entità e la dimensione di questa crisi che il mercato e gli operatori sono lì appesi a vedere come va il collocamento dei bot di Lisbona, una cosa incredibile 2 anni fa. Comunque il cambiamento si cavalca, non si subisce, andiamo avanti, non subiamo nemmeno noi, un meno 1,3% ST Microelectronics, come mai? Sì, ST Macroelectronics subisce il timore che ci sia un rallentamento nella domanda di personal computer, quindi ricordiamo che ST è uno dei massimi produttori di chip e ne dovrebbe subire le conseguenze. Ancora per quello che riguarda i titoli, bene, è andato in pregiro ed è seduta intera che va bene in pregiro, più 2,6%, Montepaschi più 2,2. Fastweb, hanno ragione gli ascoltatori, non abbiamo parlato di Fastweb. Fastweb, dopo l'offerta totale, cioè raccoglie tutte le aziende che sono in circolazione, Swisscom, il titolo è schizzato del 33,5%, altro che vendere i denti d'oro. Sì, a 17,93 euro, a un soffio dal prezzo che viene offerto dalla controllante Swisscom, che ha messo sul piatto 18 euro per azione. I titoli appunto si sono quasi allineati al prezzo d'OPA, tra l'altro se l'operazione andrà a buon fine sicuramente sarà così, visto che il flottante è abbastanza risicato intorno al 17%, Fastweb scomparirà dal listino dopo quasi 10 anni esatti, era arrivata al listino milanese nel marzo 2000, dopo quindi 10 anni e qualche mese dalla sua comparsa. Allora il traffico, poi torniamo sulla borsa. Io vedo che sull'oro c'è chi dice attenzione, chi vuole vendere il dente d'oro, l'oro deve essere nuovo non usato, e anche qui dipende dal dente. Poi c'è chi ci chiede, chi possiede un'opera editoriale a tiratura limitata con fregi in oro zecchino ha guadagnato qualcosa. Cioè, onestamente questo non è Teleelefante, con massimo rispetto per Teleelefante, non lo so, cerchiamo di occuparci le aste e lasciamo altri canali. Il traffico di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora Donna Micheli, altri due titoli, poi do io il restante. Enel più 1,2%, Secondo Sole 24 Ore l'IPO, cioè il collocamento di Enel Green Power, ne abbiamo parlato venerdì a Cernobbio con il presidente Enel Piero Gnudi, sarà già il 18 ottobre? Esatto, questo articolo ha dato il là quindi a una serie di ordini d'acquisto, le Enel si erano già messe in evidenza questa mattina e praticamente si scaldano i motori quindi per questo collocamento della controllata Enel Green Power. Ancora su Fiat, visto che poi parleremo ampiamente della disdetta del contratto di Federmeccanica, non della sola Fiat. Fiat già aveva avviato le sue trattative con Pomigliano. Più 1,9%. Sì, è andata bene insieme a tutto il comparto auto, ovviamente si è riscattata nel pomeriggio e quindi mentre questa mattina i titoli erano abbastanza deboli, nonostante appunto tutte le problematiche legate al contratto Federmeccanica. Altri titoli, Italcementi più 2,1%, Parmalat più 2,1%, Tenaris più 1,7% come l'automatica, l'1,4% la guadagna Mediaset, l'1,3% Finmeccanica ma anche Mediolanum e Unicredito, l'1,2% rialzo di Exor e di A2A, l'1,1% quello di Telecom Italia e Pirelli, l'1% quello di Luxottica e Bulgari ed Intesa San Paolo, Buzzi Unicem invece meno 0,6%, Ansaldo meno 0,6%, il peggiore in assoluto oggi. Archimedica meno 4,6, Boero Bartolomeo meno 7,3, bene oggi anche Dada più 11,6%, Kerself più 7%. Grazie Eleonora Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, mi consigliate di vendere le fedi d'oro alla patria, no, non ho capito, e poi, insomma dipende che rapporti ha con sua moglie, e poi un dente avvelenato quanto vale, anche qui, vale tanto il dente avvelenato. Allora, vedo che qua tutti stanno scatenando sull'oro, perché non parlate di crolli? Non è un crollo quello di Tokyo, è un forte calo, il crollo, diciamo, per fortuna è un'altra cosa. Invece, una buona notizia, vogliamo chiudere questa prima ora con una buona notizia, visto che poi parleremo di Federmeccanica con la FIOM, con la Federmeccanica. Sono ripartite le compravendite del mattone, più 2,3%, e anche i mutui, più 13,7%, ancora sotto rispetto ai livelli prima della crisi, ma insomma si sta tornando a muoversi il mercato immobiliare. Ed è una buona notizia perché qualunque risveglio dell'economia parte anche dal mattone. Ce l'ha comunicato oggi l'Istat, presidente di Nomisma e di Asso Immobiliare, Gualtiero Tamburini, buonasera. Buonasera. Allora, risulta anche a voi i vostri dati, perché l'Istat oggi fotografa i primi tre mesi dell'anno, 3 milioni e mezzo di mutui per un valore totale di 255 miliardi di euro, scusatemi, 3 su 4 a tasso variabile, mentre in Germania e Francia 3 su 4 sono a tasso fisso. Come si coniuga questo dato con quanto lì Banca d'Italia ci ha detto due giorni fa, che i debiti delle famiglie sono aumentati del 21%, soprattutto per i prestiti della casa? Beh, stanno aumentando i mutui, hanno cominciato ad aumentare. E quindi il dato di Banca d'Italia era riferito non agli ultimi tre mesi ma a un periodo precedente. In ogni caso, diciamo, la notizia, come si è detto, è buona perché il mercato ha smesso di scendere, però non è che ci possiamo esaltare, nel senso che c'è, è vero, una crescita del 2-3% delle compravendite di case, ma siamo molto al di sotto dei livelli di tre anni fa. E di fianco all'aumento della compravendita di case c'è ancora un calo piuttosto consistente della compravendita di immobili per le attività economiche, quindi negozi, alberghi, capannoni industriali, il che vuol dire che l'economia continua a non tirare adeguatamente, e questo ovviamente è il problema vero, reale per il mercato immobiliare, che ha bisogno di un'economia che torni a crescere, di occupazione che torni a crescere, per fare sì che il processo si rimetta in moto velocemente. Certo, ha smesso di calare il numero di compravendite. Ecco, presidente Tamburini, però vedo già che alcuni ascoltatori fanno un po' di confusione. Il numero di compravendite e il numero di mutui accesi non dice nulla sul prezzo, attenzione, perché poi il vero dato è sì il movimento del mercato, diciamo così, ma poi anche vedere se oltre al movimento del mercato salgono le quotazioni. Voglio dire, le compravendite, Presidente, potrebbero aumentare perché la gente va sempre più in difficoltà e quindi vende case che magari prima cercava di non vendere. Oppure notate anche un rialzo dei prezzi, mi dica. No, nessun rialzo dei prezzi per ora, diciamo che anche per quello che riguarda i prezzi, però l'andamento ha qualche analogia, nel senso che il numero di case compravendute è andato calando in modo molto consistente di trimestre in trimestre e c'è una piccola ripresa, i prezzi sono calati leggermente negli ultimi anno e mezzo e gli ultimissimi dati sono di prezzi tendenzialmente stabili oggi, quindi parrebbe che avessero smesso di scendere. Quindi sono scesi, diciamo, attorno a, per mettere un numero medio, così dire, 10%, diciamo, durante il periodo di crisi, cioè sono scesi molto meno di quanto non siano scesi negli altri paesi. È vero che erano cresciuti meno di quanto non fossero cresciuti altrove. Il nostro è un mercato che ha molti ammortizzatori, le famiglie è vero che sono più indebitate, ma sono comunque sempre molto meno indebitate delle famiglie europee o delle famiglie nordamericane, e quindi, diciamo, quella trasmissione degli effetti negativi dell'economia e dell'occupazione sul mercato immobiliare da noi è meno forte, almeno per ora, perché c'è un dato preoccupante alle porte che è quello sull'aumento del numero di famiglie che ha difficoltà a rimborsare i mutui, e potrebbe succedere che a un certo momento ci possa essere un'immissione di case sul mercato che arrivano dai mutui che si sono incagliati. Quindi, quanto è alto questo rischio? Non è battuto perché siamo in chiusura? Ma è un rischio che nel nostro paese non si è mai tramutato in un fatto, nel senso che gli ammortizzatori di soldi fino ad ora hanno sempre tenuto. Siccome le aspettative sono di una ripresa lenta dell'economia, questo dovrebbe frenare la possibilità che il rischio si tramuti, sì, certo, in fatti. E cioè, l'economia crescerà anche se lentamente, ma insomma crescerà. Grazie, staremo a vedere, ci sembrava importante fotografare la prima inversione di tendenza dal 2009 delle compravendite immobiliari e anche del numero di mutui. Grazie al presidente di Nomisma e di Asso Immobiliare Gualtiero Tamburini. Grazie a lei, buonasera. Adesso c'è il nostro GR, poi parliamo di Federmeccanica. Ci scrive, allora, a parte che c'è un ascoltatore interessato al dente d'oro di un altro ascoltatore, se è un canino, ragazzi, non è Teleelefante. E poi c'è chi dice: posseggo circa 15 kg d'oro in lingotti, li posso vendere in banca? Sì, anche se, cioè, ma come fa a possedere 15 kg d'oro in lingotti? Ma che la banda va sotto. Vabbè, GR, poi parliamo di Federmeccanica. 349-238-6666 per i vostri sms. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, chiarito che l'ascoltatore non aveva 15 kg d'oro in lingotto, ma aveva 15 grammi, a questo punto non in lingotto. 15 kg d'oro valgono circa 650 mila dollari, insomma, il valore era bello alto. Adesso torniamo a essere molto molto seri, non che l'oro non sia un elemento di serietà, perché parliamo del tema del giorno, da ieri, da quando Federmeccanica ha annunciato in un documento che praticamente riteneva ormai passati e non più validi gli accordi firmati nel 2008 nel settore metalmeccanico, quindi disdetta il contratto del 2008. Su questo grossissime reazioni, a partire chiaramente, come era immaginabile, dal no del segretario generale della FIOM Maurizio Landini. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, cambia il mondo, dicevamo, la Fiat ha aperto là, inutile nascondersi dietro un dito, chiedendo nuove forme contrattuali per mantenere l'occupazione a Pomigliano d'Arco. A questo punto ieri Federmeccanica, che riunisce un milione di lavoratori oltre che decine di migliaia di imprese del settore, ha detto bene, per noi quegli accordi non sono più validi, bisogna ripartire con la contrattazione. Erano tra le cose annunciate, credo che sia un atto grave e irresponsabile, è un atto contro i lavoratori metalmeccanici e contro le regole democratiche di questo paese. Trovo che sia una pretesa un po' assurda quella di cancellare il contratto nazionale senza sentire il parere dei lavoratori interessati. Noi non abbiamo intenzione di accettare questa decisione, per noi rimane valido il contratto firmato nel 2008 e votato da tutti i lavoratori. E decideremo, discuteremo oggi nel Comitato Centrale anche i tempi, le forme, le modalità con cui presenteremo anche una piattaforma per il rinnovo del contratto. Credo che accettare il diktat della FIA, perché questo è quello che è avvenuto, e far diventare Pomigliano la regola dei diritti nel nostro paese sia un grave errore per le imprese, perché in questo modo passa l'idea che per lavorare bisogna cancellare i diritti ed è sbagliato per chi lavora, ma è sbagliato anche per l'industria del nostro paese, e le imprese dovrebbero riflettere che fare accordi con sindacati minoritari non gli serve molto, perché rischiano semplicemente di non avere il consenso e di non essere applicabili nelle loro fabbriche. Contratto vigente dal 1 gennaio 2010, quindi noi stiamo pagando giustamente questo contratto e gli aumenti di questo contratto, quindi non è che i lavoratori non hanno un contratto. Noi abbiamo firmato un nuovo contratto con tutti i sindacati tranne la FIOM. La FIOM continua a dire che ritiene valido il precedente contratto. Noi abbiamo firmato un nuovo contratto a gennaio 2010, quindi abbiamo dato la disdetta al precedente, ma per un fatto esclusivamente tecnico. Quindi voglio che si sottolinei bene, si capisca bene che i lavoratori metalmeccanici hanno un loro contratto, stanno ricevendo gli aumenti e le buste paga legate a questo nuovo contratto. È chiaro che siamo in una situazione complessa. Noi abbiamo un pezzo di sindacato che vuole insieme a noi cambiare le relazioni sindacali e rendere più competitive le imprese per poi poter pagare più salari. C'è una parte del sindacato, in particolare la FIOM, che non vuole accettare questa logica. Quindi siamo in un momento complesso, noi auspichiamo e speriamo, anche se abbiamo poche speranze, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, che la FIOM ci possa ripensare, si possa risedere al tavolo con noi e possa insieme a noi, come dire, proseguire questo cammino. Allora, avete appena sentito due posizioni molto molto distanti, quella della FIOM guidata da Maurizio Landini, che ha detto insomma avete fatto la Federmeccanica ha fatto questo perché ha dovuto seguire la Fiat nella vicenda Pomigliano, e la posizione della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha detto attenzione, non è che non c'è un contratto, la FIOM tra l'altro, aggiungo io, non ha nemmeno partecipato alla firma degli accordi del gennaio 2009, che prevedono gli accordi separati, le deroghe al contratto nazionale, c'è un contratto, semplicemente si è preso atto che quello vecchio non valeva più. Immagino che le posizioni resteranno, ma immagino, mi auguro di no, separate anche tra i due ospiti, e quindi ringrazio da un lato il direttore generale di Federmeccanica, Roberto Santarelli. Buonasera direttore. Buonasera. 60.000 imprese associate, oltre 1.600.000 i lavoratori di queste imprese, dall'altro Giorgio Cremaschi, che ha guidato per anni la FIOM, e quindi la FIOM CGIL. Giorgio Cremaschi, buonasera anche a lei, segretario. Buonasera, buonasera. Allora, segretario, prima di andare sul traffico, poi sentirò anche Santelli, mi fa capire una cosa, perché dobbiamo spiegare a tutti gli ascoltatori, al di là del fatto, del metodo, il modo, la tempistica, ma insomma, nel 2009 gli altri sindacati, non la FIOM e non la CGIL, hanno firmato un accordo che prevede, rispetto al contratto nazionale, la deroga, per cui che si possono fare il secondo livello, cioè accordi anche relativi alla busta paga, anche relativi agli orari di lavoro e alle turnazioni, accordi diciamo aziendali, questo per rendere più flessibile e meno irregimentate le imprese. Voi eravate contrari, siete rimasti contrari, ma voglio dire, gli altri sindacati che hanno firmato, a questo punto le varie associazioni possono andare avanti su questo o no? E no, glielo impediremo. Ho capito. Faremo il possibile almeno per impedirglielo, mi scusi, ma questa è la sostanza. Cioè, nessuno ovviamente Nessuno ovviamente contesta il diritto a chiunque di dire quello che vuole, però qui stiamo discutendo di una cosa precisa. La parola deroga è già un eufemismo. Sostanzialmente si tratta di decidere di peggiorare azienda per azienda i diritti minimi dei lavoratori, perché il contratto nazionale non stabilisce i diritti massimi, ma i diritti minimi. Quindi la deroga non è la contrattazione, poi so che nel linguaggio dei sindacalisti le cose possono essere cambiate. La deroga significa che se un'azienda, quando vuole, può chiedere ai lavoratori di peggiorare il salario, peggiorare le condizioni normative dei diritti, come peraltro ha fatto la Fiat e vuol fare la Fiat a Pomigliano. Noi su questo siamo assolutamente contrari, noi siamo per il principio che devono essere dei diritti minimi non derogabili in tutta Italia. Per noi questa è una questione della Costituzione del Paese. In più aggiungiamo che gli operai italiani sono tra i peggio pagati d'Europa, quindi gli industriali dovrebbero cominciare a smetterla di chiedere sempre a pantalone operaio di pagare per tutti. E se vuole sapere anche il mio giudizio sui sindacati che firmano queste cose, il mio giudizio è molto semplice. Noi facciamo il nostro mestiere e gli altri sostengono le posizioni degli industriali. Io non credo che sia un titolo di orgoglio per un sindacato sentirsi dire che fare tutti questi complimenti dagli industriali. Spero che prima o poi la CISL e la UIL capiscano che a fare solo la Confindustria e gli industriali perdono anche la ragione sociale del loro esistere. Una cosa, Cremaschi, poi voglio sentire Santarelli, prima però il traffico. Mi scusi, ma sta accusando la CISL e la UIL di collateralismo con Confindustria? Mi faccia capire. Non è un'accusa, sto constatandolo. Non è un'accusa, è un fatto. Mm-hmm. E dire collateralismo forse no. Io sto dicendo che sono totalmente complici con la Confindustria di un disegno che sta portando alla distruzione del contratto nazionale in Italia. Allora, siamo partiti bene bene, moderati, dialettici, pronti a fare gli accordi. Allora, traffico, poi il direttore generale di Federmeccanica, poi ho anche una domanda per lei, Cremaschi, che le anticipo. Cioè, al di là poi delle dinamiche interne al sindacato e poi tra sindacato e Confindustria, io dico, se le imprese sono in difficoltà e sono in difficoltà perché la crisi non l'ha creata né il sindacato né le imprese, l'ha creata la finanza deviata e derivata. Però meglio, diciamo, tenere i dipendenti e possibilmente aumentarli, ma comunque tenerli con turni sicuramente più svantaggiosi e con una riduzione delle volte anche della busta paga, o meglio mandarli a casa? Perché mi sembra che l'alternativa sia molto tra queste due cose. Però la risposta dopo il traffico e dopo anche la domanda che ho per Santarelli. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, direttore generale Santarelli, direttore generale di Federmeccanica, insomma, le accuse, le critiche le ha sentite dalla FIOM, io faccio il mio mestiere, quindi faccio una domanda anche a lei. Non c'era altro modo per rimettere in discussione il contratto del 2008, anche alla luce, so che voi dite che non è così, va bene, ma immaginiamo anche, visto che qua nessuno è virginella, che fosse per via della Fiat, che è un gruppo globale che deve prendere atto che si compete anche rinegoziando con questa crisi i contratti, ma non si poteva scegliere un modo che non fosse, diciamo, il comunicato, la lettera così che è arrivata anche a noi ieri tra capo e collo? Chiedo. Ma tra capo e collo, questo è un dibattito che mi pare stia andando avanti da diversi mesi. Il contenuto di quel comunicato stampa, che ovviamente traduce una decisione del Consiglio Direttivo, è esattamente in linea con un percorso che abbiamo iniziato da un paio d'anni a questa parte, ma è un percorso che la FIOM non condivide, me ne dispiaccio, così come Cremaschi ci concede libertà di pensiero e di azione, la stessa cosa ovviamente vale per loro. Però qui si confrontano due idee diverse di sindacato e di modo di regolare i rapporti di lavoro nell'industria che ovviamente in questo momento, come si dimostra, non trovano un punto di incontro. Ma a me preme rispondere su punti di merito che sono stati anche citati nell'intervento iniziale di Landini. Allora, innanzitutto vorrei rassicurare sul fatto che i lavoratori metalmeccanici, tutti i lavoratori metalmeccanici, il contratto ce l'hanno. È frutto dell'accordo dell'ottobre 2009 ed è migliorativo rispetto al precedente contratto firmato nel 2008. Questo è un dato assodato. Ma sui punti specifici, il sistema delle deroghe. Allora, innanzitutto, le deroghe cosa sono? Sono la possibilità di contrattare, quindi negoziare tra le parti a livello locale, delle condizioni derogatorie rispetto a quelle previste dal contratto nazionale, laddove se ne ravvisi l'opportunità, sia in situazioni di crisi che per favorire lo sviluppo occupazionale o per attrarre nuovi investimenti. È un modello che sostanzialmente si rifà al sistema tedesco delle cosiddette clausole d'uscita, dove già sono diversi anni che è in funzionamento, quindi non è nulla di innovativo da questo punto di vista, si rifà proprio al modello tedesco che spesso viene citato ad esempio. Oltretutto, alla considerazione fatta che le deroghe cancellano il contratto nazionale, faccio solo presente che la derogabilità al contratto nazionale è già prevista dal contratto dei chimici, già in vigore da qualche anno, che sì, è stato firmato anche dalla CGIL, e non mi risulta che il contratto dei chimici non sia stato cancellato da questa misura. Quindi, insomma, si sta montando la panna. Ecco, direttore Santarelli, sì, si sta montando la panna, però... Voglio dire, era ovvio che sarebbe successo. Allora le chiedo due cose, le vorrei delle risposte un po' sintetiche perché devo fare anche una domanda a Cremaschi e poi un'altra a lei. Si poteva scegliere un altro metodo secondo lei rispetto a questa lettera, sì o no? Ma sai, il metodo, cioè, ce ne sono sempre gli alternativi, ma la sostanza delle questioni è esattamente questa. No, cioè, ma... la comunicazione, il recesso dal contratto è un fatto puramente tecnico a tutela giuridica delle aziende, oltretutto mica la prima volta che succede. Nel contratto del 2003 lo stesso è stato comunicato recesso alla FIOM quando loro non firmarono il contratto anche nel 2003, quindi non vedo... Ecco, adesso però che cosa farete? Nel senso che la FIOM ha confermato poco fa 4 ore di sciopero, ha visto anche la notizia entro il 16 ottobre, andrete avanti con CISL e UIL e quindi con le relative rappresentanze dentro il mondo metalmeccanico? Che la FIOM rifiuti questa impostazione negoziale, avendo rifiutato prima le nuove regole e poi di firmare il contratto. E noi abbiamo l'esigenza comunque di innovare, di introdurre elementi di competitività nuovi anche all'interno del nostro sistema di relazioni, e andiamo avanti con chi ci sta, come si dice, che è una frase brutta cosiddetta, mi rendo conto. Ma di fatto noi non abbiamo lavorato per escludere nessuno, anzi noi lavoriamo per includere, per avere il consenso più ampio possibile, ma ripeto, possibile, è l'impossibile, non riusciamo a farlo. Laddove c'è un rifiuto totale, continuo, su tutto e su tutti, non possiamo che prenderne atto. Qualche elemento, dottor Santarelli, su cui invece è possibile una mediazione per tirare dentro anche la FIOM, lei lo vede? Non lo so, noi abbiamo delineato un percorso, le porte sono sempre aperte a tutti, vedo che anche all'interno della FIOM si è aperto un dibattito, mi leggo dalle agenzie, dalle interviste che ho visto oggi sui giornali, c'è una minoranza interna che si è rafforzata anche negli ultimi tempi, mi sembra, che sta dicendo alla FIOM non possiamo andare avanti così, non possiamo dire sempre di no e non possiamo gestire i rapporti soltanto sul piano del conflitto. Quindi se maturano idee nuove noi siamo pronti ad ascoltarle. Allora, Giorgio Cremaschi, io volevo, non ho più tempo, volevo far sentire anche quella frase di Marchionne a Rimini in cui diceva attenzione che basta con la contrapposizione operai e padroni. Lei prima ha detto non trovo che sia un elemento di merito per un sindacato essere d'accordo con la Confindustria, non è neanche un elemento di demerito, ma insomma la domanda che le faccio è: con il massimo rispetto per i diritti dei lavoratori, non ritiene che sia meglio tenere i dipendenti anche se con turni sicuramente non migliori e con una busta paga sicuramente non migliore, piuttosto che perdere o l'impianto o comunque rinunciare a una quota di lavoratori? No, penso di no, e per una ragione di fondo. Lei prima ha fatto, vedo che si parla tanto della Germania, ma in Germania un metalmeccanico medio guadagna 3.000 euro al mese, e quando si dice che fa le deroghe vuol dire che passa da 35 ore settimanali, che è l'orario del contratto nazionale dei metalmeccanici tedeschi, a lavorarne 40. Allora il punto è questo, non è questa la condizione dell'Italia. Noi siamo il paese che ha i salari più bassi, tra i più bassi d'Europa, abbiamo tra gli orari di lavoro nell'Europa occidentale tra i più alti, abbiamo dei livelli di infortuni e di caduta della salute del lavoro tra i più alti. Quindi secondo noi non c'è altre deroghe da fare. Cremaschi, mi dica solo una cosa, perché devo veramente chiudere, ma non temete in questo modo di restare isolati? Ma guardi, noi non pensiamo di essere isolati, noi pensiamo che una grande parte dei lavoratori siano con noi. In ogni caso, noi oggi abbiamo fatto una proposta. Se la FIM, la UIM e la Confindustria pensano che siano giuste le deroghe, si faccia un referendum tra tutti i metalmeccanici, tra tutti, non con la pistola puntata come è avvenuta a Pomigliano, si faccia un referendum tra tutti i metalmeccanici per sapere se loro danno il mandato a chi fa queste cose di fare il regime delle deroghe. Allora c'è qua accanto a me Giulio Crucciani, adesso non ce l'ho sul programma, ma Cremaschi, perché dice pistola puntata a Pomigliano? Hanno votato? Perché la pistola puntata è perché è evidente, perché quando uno gli dici e gli fai un referendum in cui gli dici se voti sì hai forse il lavoro, se voti no ti chiudo la fabbrica, si chiama ricatto in un sì altro però linguaggio. Si chiama, vabbè, no, adesso devo veramente chiudere, però torniamo a parlarne con lei Cremaschi e anche con il direttore generale della Federmeccanica, si chiama anche presa d'atto che tra il 2008 e il 2010 è successo di tutto nel mondo. Grazie comunque a tutti e due per la disponibilità. E appunto a Roberto Santarelli e a Giorgio Cremaschi. Poi, Giuseppe, non poteva battaglia finire, vabbè, ma torneremo. Era ovvio, l'abbiamo detto fin dall'inizio, però insomma, molto, molto distanti tutte le posizioni: Landini, Marcegaglia, Santarelli, Cremaschi. Temi più così di respiro, non voglio dire leggeri perché sembra un giudizio di valore. Leggeri per modo di dire, perché per esempio c'è una frase di cui parleremo, pronunciata da una finiana, si chiama Angela Napoli, su cui invito gli ascoltatori già a riflettere. Alcune deputate e senatrici sono state elette perché si sono prostituite. Ecco, un tema leggero, e con questo siamo puntata di un tema leggero che ancora di cui sentivamo obiettivamente il bisogno. Chiudiamo, grazie da Sebastiano Barigioni, un auguro di buona serata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.